L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio e ben ritrovati da Laura Bettini, una nuova puntata dell'Altro Pianeta, nella quale partiremo da alcune delle affermazioni del ministro dell'agricoltura Martina per così fare un excursus sull'acqua, i fertilizzanti, i concimi e quello che finisce alla fine nel nostro piatto. Cosa ha detto il ministro dell'agricoltura? Ha detto, parlando di Expo, vorremmo centrare l'obiettivo della sostenibilità e della valorizzazione del modello agricolo italiano, ricordando la diffusione del modello di coltivazione biologica e la progressiva riduzione di pesticidi e di emissioni di gas serra provenienti dal settore agricolo. Più o meno un mese fa è uscito, a proposito appunto di pesticidi e concimi, il rapporto nazionale pesticidi nelle acque, che è stato elaborato dall'ISPRA, come ormai accade dal 2003. Ebbene, per commentare l'una affermazione e il rapporto dell'ISPRA abbiamo richiamato Luciano Azzori, che è consigliere segretario dell'Ordine Nazionale dei Biologi, coordinatore della Commissione Permanente di Studio dell'Ordine dei Biologi, Igiene, Sicurezza e Qualità e tra l'altro ultimamente anche coordinatore del Comitato Expo dell'Ordine Nazionale dei Biologi. Quindi una persona che riassume in sé un po' tutte le figure che ci servono per commentare appunto le affermazioni del ministro Martina e il rapporto sui pesticidi nelle nostre acque sotterranee e nelle acque superficiali. Azzori, io intanto le chiedo che cosa c'è insomma in queste acque e di che cosa ci dobbiamo preoccupare? Allora, diciamo che al di là di quello che l'indagine che è stata fatta soprattutto sui prodotti fitofarmaci, l'allarme è più vasto, da 360 gradi, che riguarda anche l'uso di concimi, specialmente quelli di sintesi. L'uso di queste due sostanze, quindi prodotti che servono contro gli insetti, nematodi, insomma quelli che sono erbe infestanti, sono diciamo nemici dell'agricoltura, parliamo di nemici intesa come qualità e quantità di produzione, ci sono tutta una serie di effetti che possono dare inquinamento ambientale, tradotto anche problemi alla salute sia degli animali, di altri vegetali, ma anche dell'uomo. Un esempio fra tutti può essere l'eccessivo uso di alcuni concimi che contengono azoto. L'azoto è importantissimo per tutte le piante a livello agronomico, serve a massimizzare e aumentare quella che è la produzione e anche la qualità dei prodotti agricoli. E il problema è che spesso e volentieri viene messo sotto forma di azoto nitrico. Questo è direttamente assimilabile dall'apparato radicale delle piante. L'unico inconveniente è che non viene trattenuto dal potere assorbente del suolo. Tradotto, basta un'irrigazione eccessiva, basta un evento piovoso e questo si trova dilavato nelle sottostanti falde. E quindi ce lo troviamo anche nell'acqua che beviamo, eccetera. Se poi io tengo conto che i nitrati me li trovo anche come additivi in alcuni prodotti alimentari, ammessi per legge, quali ad esempio gli insaccati derivati dalle carni, me li trovo anche naturalmente presenti in alcuni vegetali, ortaggi, io sommo queste tre fonti di assunzione, io posso andare in rischio a tutte quelle che sono le problematiche legate al consumo dei nitrati, che in due parole sono suddivise in problemi per bambini, quindi diciamo fondamentalmente neonati, quindi bambini piccoli, e adulti. Bambini piccoli, i nitrati si trasformano nel loro stomaco in nitriti per un processo di riduzione dovuto ad alcuni batteri. Cosa succede? Che questi nitriti si legano all'emoglobina di questi neonati, facendo sì che non possa più legarsi con l'ossigeno. Tra l'altro non possono più portare ossigeno ai tessuti, vanno incontro a una malattia, una sindrome che in America chiamano sindrome del bambino blu, perché diventa cianotico, che è poi una sorta di asfissia che può portare anche alla morte se non si interviene in maniera tempestiva, che viene chiamata invece in Italia metaemoglobinemia. E ci sono casi, cioè non è un evento rarissimo, no? È un evento che... Nella maniera più assoluta. Poi ci sono casi più o meno drammatici, dipende da quanto è l'assunzione, se sia una forma parziale, totale, eccetera. Negli adulti invece ha un effetto non tanto acuto quanto cronico nel tempo. Io assumo nitrati sotto tutte le forme di cui ho parlato poc'anzi. Cosa mi trovo? Che questi si trasformano in nitriti, reagendo nel mio stesso apparato digerente con le ammine che sono normalmente presenti nel nostro intestino, soprattutto nello stomaco, e si trasformano in nitrosamine. Nitrosamine sono sostanze cancerogene. Infatti io dico sempre: evitare gli alimenti che contengono nitrati, comprate acque minerali che hanno un valore bassissimo di nitrati, 0, e quando si mangiano alcuni ortaggi, possibilmente associare anche in quel pasto agrumi, kiwi, cioè sostanze molto ricche, alimenti molto ricchi di limone, perché la vitamina C evita la trasformazione di nitrati in nitriti e quindi viene bloccato questo processo. Diciamo che in una certa misura ci possiamo difendere leggendo le etichette con molta attenzione. Sicuramente per quanto concerne gli insaccati e i salumi e per quanto concerne le acque minerali. Non possiamo fare la stessa cosa per quanto concerne alcuni prodotti vegetali, ortaggi. Certo. Perché no, in quella maniera no, però se dovessimo, io non dico di non mangiare questi prodotti, anzi fanno benissimo per tanti altri contenuti che si hanno, antociani, flavonoidi e via dicendo, però è sempre meglio associare della vitamina C. Non a caso molti produttori di insaccati nei loro salumi mettono sì i nitrati come additivi ammessi per legge, ma aggiungono anche l'acido eliascorbico, tradotto vitamina C, non è un caso. Ma perché che vantaggio ne ha il produttore in questo contesto? Non è un vantaggio, è una precauzione generale? È una precauzione nei confronti della salute del potenziale consumatore. Però non è un obbligo, si può fare ma non è detto che si debba fare. È un obbligo, però molti ormai nell'uso anche degli additivi si stanno spostando le industrie agroalimentari nel non uso o parziale uso, limitato uso degli additivi. Non è un caso che si trovano sempre meno il prosciutto cotto senza polifosfati, il dado per brodo senza glutamato monosodico e via dicendo, perché sanno che ormai il consumatore si è sempre più sensibilizzato, allertato e cerca di selezionarsi verso quei prodotti che vengono definiti salutistici. Quindi questo nell'industria della trasformazione, diciamo, sì, però accade. Sì. Quando si va invece nei campi, questa attenzione c'è o non c'è? E questo dipende molto dalla sensibilizzazione, dalla formazione che si ha nei confronti dell'agricoltore. Cioè più questo è formato e più è anche consapevolizzato, e diciamo che minor problemi può creare questo. È anche vero che gli agricoltori, al di là di intervenire in un aspetto formativo, tuteliamo la salute, che spesso non è che abbia un grande appeal, e bisogna intervenire sull'aspetto economico. Meno ne usi, in maniera ovviamente razionale, più risparmi e più sono i tuoi guadagni. Adesso si sta diffondendo in Italia molto la cosiddetta agricoltura di precisione, dove si usa molto la tecnologia, molti sensori, GPS, macchine fotografiche particolari, telecamere infrarossi, software, droni, e si riesce a ottimizzare non solo i consumi idrici, di cui ne parliamo in un'altra puntata, ma soprattutto anche l'uso dei fitofarmaci, degli agrofarmaci, con un consumo anche che può arrivare con una riduzione del consumo può arrivare anche al 15-20%, e questo fa gola all'agricoltore. Beh, 15-20% di uso e 15% di risparmio poi per l'acquisto, quindi. È chiaro. Quello è un margine di guadagno per l'agricoltore. Meno spese ha, più guadagna sulla vendita della materia prima. Certo, l'investimento lo deve fare su quegli altri aspetti, cioè comprare delle apparecchiature che consentono di essere così precisi. Ormai, questa tecnologia, questo sistema è partito dagli Stati Uniti già negli anni 90, da noi sta arrivando di recente, e ha solamente effetti positivi. L'unico aspetto negativo è che ancora questa tecnologia è cara, però è vero che nel giro di pochi anni i prezzi si abbatteranno, come è successo con tutti gli smartphone. Oggi costano X, dopo 2 anni costano già meno della metà. Senta, ma nel biologico, appunto, questo invece come si sviluppa? Cioè il biologico fa a meno di questi prodotti, come ovvia agli risultati che si ottengono però con quelli? Allora, il biologico è tutto un binario a sé, nel senso che non può usare prodotti di sintesi, intesi sia per la concimazione e fertilizzazione del suolo, e sia come diciamo agrofarmaci o fitofarmaci. Di conseguenza ovviamente ha un ridottissimo impatto ambientale. Di norma questi prodotti ovviamente hanno una produzione in quantità inferiore, ecco perché costano anche di più. Il problema del biologico è che ritorniamo sempre alla formazione degli agricoltori. Di recente la cronaca ha portato, io mi riferisco adesso al periodo estivo del 2014, un fatto che mi è dispiaciuto che la cronaca gli ha dato poco peso, questa azione congiunta dell'Ispettorato Repressione Frodi e della Guardia di Finanza in tutta Italia, che ha portato a smascherare un prodotto che è stato commercializzato tantissimo in Italia, commercializzato come prodotto diciamo naturale, perché si ricava naturalmente dalla radice di una pianta, una leguminosa che cresce molto in India e soprattutto in Cina. E visto questa estrazione naturale è stato definito un prodotto naturale, organico. Il problema è che invece questo prodotto contiene una sostanza chiamata atrazina, che è altamente pericolosa e non ha niente a che vedere con, perché viene spacciato spesso come concime, come corroborante, biostimolante. In realtà invece è un vero e proprio pesticida, vietato in Europa, ammesso solo in pochissimi stati. In quei pochissimi stati, quale stesse la Cina e via dicendo, il Vietnam, è classificato come pesticida. E questa sostanza è pericolosa perché ha degli effetti neurotossici sugli insetti, sui nematodi, molto devastanti, che sono praticamente gli stessi, si possono sviluppare, come molti studi hanno dimostrato, anche in altri vertebrati, quale l'uomo. E io le voglio dare due numeri per darle l'indicazione del problema. L'operazione che è avvenuta l'11 febbraio del 2015, dall'ispettorato delle persone frodi insieme alla Guardia di Finanza, doveva portare al sequestro, perché sapevano che c'era, di circa 94 tonnellate di sostanze contenenti l'atrazina. Beh, sono riusciti, andando a fare proprio sopralluoghi immediati in tantissime città, da Bologna a Forlì, Cosenza, Nord, Sud, Cagliari, Agrigento, Arezzo e via dicendo, solamente 16,5 tonnellate. Che cosa vuol dire? Che le restanti 77,5 tonnellate erano state commercializzate, cioè tradotto, erano state utilizzate dagli agricoltori in buona fede e sono stati quei prodotti mangiati da tutti noi. Siccome erano prodotti destinati al biologico, per logica, non dico che so di concreto, però per logica presumo che siano stati usati soprattutto nel biologico, dando una questa operazione un valore complessivo di tutti i prodotti illecitamente commercializzati, un guadagno di circa 7 milioni di euro. L'altro pianeta. Ancora un buon pomeriggio da Laura Bettini per questa puntata dell'altro pianeta. Siamo un po' partiti dall'ambizione dichiarata dal ministro dell'agricoltura Martina di ridurre pesticidi e impatto ambientale dell'agricoltura italiana affinché questa possa diventare in futuro un modello per quella internazionale. Abbiamo parlato anche del rapporto ISPRA sui pesticidi nelle acque italiane. Abbiamo affrontato questi argomenti con Luciana Azzori, coordinatore della commissione permanente dell'Ordine Nazionale dei biologi per igiene, sicurezza e qualità. E dopo aver affrontato questi argomenti siamo arrivati al termine del discorso, prima della viabilità, a parlare di agricoltura biologica. Agricoltura biologica che non può usare prodotti di sintesi sia per la concimazione, la fertilizzazione che come fitofarmaci e agrofarmaci, e quindi ha in generale un minore impatto ambientale. Ci ricordava però Azzori di una frode relativa a un prodotto commercializzato in Italia come naturale per la concimazione, che conteneva invece atrazina, pericolosissima, vietata in Unione Europea perché neurotossica. Ebbene, sono arrivate di questo prodotto in Italia 94 tonnellate complessive e gli inquirenti, una volta scoperta la frode, ne hanno ritrovate purtroppo solo 16,5. Le restanti quindi probabilmente sono state utilizzate e probabilmente sono state utilizzate nel biologico, perché il prodotto veniva venduto come naturale. Allora, chi ha fatto la truffa ha guadagnato 7 milioni di euro. Chi invece è stato danneggiato da questa truffa subirà danni che sono ancora da accertare, ma potenzialmente gravissimi, perché hanno utilizzato questi agricoltori un prodotto che è tutt'altro che naturale e che potrebbe addirittura inficiare quindi le loro produzioni, non solo prossime ma anche future. Questi stessi agricoltori si potrebbero trovare anche inconsci da dover ritirare la certificazione. Noi prodotti proprio non puoi più fare il biologico se gli organi di vigilanza riescono a dimostrare che hanno fatto questa produzione non più biologica, perché non è certo più biologica. Beh, lì dovranno poi dirimere la questione se appunto c'è stata una frode su un periodo di tempo che consenta di ristabilire le basi su cui ricostruire un'agricoltura biologica, perché sicuramente insomma non c'era la volontà di nuocere. No, questo nella maniera di frodare. Malafede erano il produttore, il commerciante di tutta Italia e i fruitori, cioè gli agricoltori, in realtà erano in buona fede. Ma vi faccio un caso, giusto per dire quanto è persistente e pericolosa questa sostanza, la matrina, che sono state rinvenute su alcune colture, precisamente da basilico, non trattate direttamente con questo alcaloide, ma sono state trovate determinate quantità di atrazina perché non state utilizzate nella coltura precedente. Non so se hai capito quanto persiste nel terreno. Quindi è stata una coltura, adesso non so di preciso di cosa si trattasse, è stata raccolta, commercializzata, rifatte le arature, tutto è preparato il terreno, è stato il basilico e il basilico ha la atrazina. Sì, quindi è rimasta nel terreno e la pianta... Sì, è molto persistente, uno dei suoi vantaggi, vantaggi tra virgolette, nell'uso, che è molto persistente. E poi è un'azione a quasi a 360 gradi, insetti, acari, nematodi, piccoli molluschi, cioè è qualcosa di veramente un toccasano, tra virgolette, sano per la produzione e non per chi consuma quei prodotti. Ecco, esattamente. Senta, allora adesso lei ha introdotto due temi che io vorrei sottoporre ai nostri ascoltatori, che sono quelli della normativa che esiste nell'Unione Europea e poi quello dei fitofarmaci, e quindi direi quella linea stretta che esiste, sulla quale ci si muove e ogni paese cerca di fare il proprio interesse. Lei mi ha citato prima il caso delle pere spagnole, che credo sia di particolare interesse per chi ci ascolta. Sì, allora la sostanza in questione, diamogli il nome, si chiama etossicchina, è un agrofarmaco che diciamo, qui ad esempio in Italia non è ammesso. Viene utilizzato soprattutto, anzi quasi esclusivamente, per le pere, per evitare quello che viene chiamato il riscaldo, cioè un'eccessiva maturazione, poi diventa un rifiuto e una perdita anche economica. Però diciamo che alcuni stati, mi riferisco soprattutto alla Spagna, seguita anche dal Portogallo, hanno avuto un'autorizzazione d'uso eccezionale, una sorta di deroga, chiamiamola così, e quindi sono state per lungo tempo, per anni, commercializzate in tutta Europa, compreso l'Italia, mentre gli italiani non potevano, creando quella che non solo creando un problema sanitario, perché non è una sostanza, è stata vietata, c'è un suo perché, chiaro, ma poi creando quello che viene chiamato, io definisco, una concorrenza sleale, perché quelle pere negli scaffali mi duravano 7-10 giorni contro quelle italiane che durano pochi giorni e poi devono essere gettate. E ovviamente quelle pere non solo durano di più, ma vengono a costare di meno, tutta una serie di fattori che hanno favorito gli esportatori spagnoli piuttosto che i produttori autoctoni nostri locali. Adesso cosa accade? Adesso vale ancora questa deroga? È stata proprio quest'estate bloccata grazie a un'azione congiunta del Ministero della Sanità e del Ministero delle Politiche Agricole. Però questa è una delle tante sostanze, tra virgolette, in deroga oppure con questa autorizzazione d'uso eccezionale. Ce ne sono anche altre di questi tipi di agrofarmaci. Non so, c'è uno che viene utilizzato per le carote, un altro per le fragole, in Italia vietati, in altri paesi no, e poi arrivano. E quindi bisognerebbe anche essere uniformi in tutto, sia per tutelare la salute su tutti gli stati, non in alcuni sì, in altri no, e sia per evitare questa concorrenza che io definisco altamente sleale. Sì, perché è sia sleale da un punto di vista commerciale che anche, insomma, dannosa, ecco, diciamo, se era vietato c'è un motivo. Sì. Ma ci sono, guarda, un altro caso recentissimo è il caso dei trattamenti post raccolta negli agrumi. Gli spagnoli mettevano una sostanza, due sostanze fondamentalmente, che sono praticamente siglate come additivi LE231 e LE232, cioè l'ortofinilfenolo e il sale di questo, che sarebbe l'ortofinilfenolato di sodio, e tutti conoscono come OPP, con questo acronimo. Queste due sostanze vietate, e in Europa la Spagna continuava a mettere nella buccia degli agrumi, quindi limoni, pompelmi, arance, che duravano molto di più perché è un antimuffa tradotto. E creando, io per caso ho avuto, ma è stata una casualità, un'arancia proveniente da questo paese che per una serie di fattori mi è rimasta sul tavolo forse qualche mese, ma era perfetta, sembrava finta. Non mi è mai più capitato, il perché è dovuto sicuramente all'uso di questa sostanza. Lei dice, vabbè, ma dov'è il problema se nella buccia viene messo un qualcosa che non arriva negli spicchi all'interno? Il problema è che è vero che se io mi faccio una spremuta non succede nulla, è vero che se io mi sbuccio l'arancia e poi mi mangio l'interno non succede nulla, ma è anche vero che moltissime persone, io penso a mio padre, ci fa il limoncello, pensiamo ad esempio, io uso molto gli infusi, ci metto la fettina di limone immersa nel tè, c'è chi fa il cosiddetto canarino quando sta male, pensiamo ai cocktail, viene sempre messa la fettina di lime o di arancio e via dicendo, ma pensiamo anche alle marmellate dove viene messa spesso perché dà un aroma più forte anche la stessa buccia, o pensiamo ai frutti canditi. Insomma, questa sostanza alla fine arriva indirettamente o direttamente nel nostro apparato con tutti i non benefici che ne crea. E grazie a una sentenza della Commissione dell'Unione Europea è stata, diciamo, bloccato l'uso o perlomeno l'obbligo categorico di riportare nell'etichetta, nella retina che raccoglie questi agrumi, il fatto che si usano queste sostanze, quindi presenza di eventuali agenti di trattamento posto raccolta. Quindi quello sì dobbiamo cercare nel caso, questa dicitura. Questa frase mi dice, qui c'è qualcosa che qui non c'è, se mi è stato imposto indicarla vuol dire che può avere determinati effetti. Quindi ecco, se dobbiamo fare una marmellata, controllare bene ovviamente questo aspetto. La materia prima, senz'altro, cercare di informarsi da dove proviene, ma appunto se nel caso di presenza di etichetta leggere anche quella, ecco, perché non è scontato nulla. Ma io dico sempre, l'importante è prendere, anche nell'ortofrutta specialmente, non tanto prodotti che vengono da paesi lontani, ma dal nostro paese, evitare le primizie perché arrivano quasi sempre da paesi lontani con tecniche di colture spinte che portano spesso anche ad azioni, diciamo, fraudolente, frodi, e quindi è sempre meglio prendere prodotti a chilometro zero della nostra zona, legata a quel contesto climatico, a quella stagione e via dicendo. Sono sicuramente i migliori. No, mi immagino la scena di quando lei va a fare la spesa e immagino non sia facile, ecco. No, per me non è... Per lei, che le vede da un punto di vista professionale, no? Io scelgo con criteri sicuramente diversi dai suoi, ecco. Vabbè, ognuno ha il suo know-how, diciamo così. No, infatti a me magari l'occhio cade sul marketing, su come l'hanno presentato e su cose più di comunicazione, diciamo, ecco. Invece lei cade su appunto l'etichetta, cosa c'è dentro, agenti conservanti, agenti... Al market... Quando sono vado a fare la spesa, per me è un momento di quasi dove sto facendo gli studi di psicologia sociale, più che fare la spesa per me, perché colgo le due cose assieme e osservo le persone come fanno l'acquisto. Lei ha detto una cosa giustissima, molto spesso sono condizionati da fattori promozionali, quindi pubblicità, oppure da leggende che esistono. Ad esempio io reparto acqua e minerali e vedo queste signore che prendono un'acqua piuttosto che un'altra, dopo aver letto l'etichetta, dico, cazzo che bello, persone istruite, che colte, che vanno a leggere. Perché, scusi, mi può dire perché ho preso quell'acqua, cosa mai serve anche a me? Ah, perché ha pochissimo sodio. Io rimango così, rimango basito, dico, perché il problema è il sodio. Lei soffre al cuore, persone bassa, persone alta, qualcuno di suoi familiari? No. E allora perché? Lei si sa che fa male il sodio. Poi nello stesso carrello c'ha il prosciutto cotto che contiene un prosciutto crudo che contiene una marea di sodio. Olive in salamoia. Cioè, è ridicolo. E invece non ha guardato i nitrati, che hanno ben altro valore per la salute. Eh certo. Questa è la pubblicità come ci pilota. Ci condiziona su queste cose. E, no, è anche una certa base, ma qui ce l'abbiamo tutti, nel senso, ognuno c'è ignorante in qualcosa. Ecco, magari uno non sa che il sodio li potrebbe far bene, perché conduce una vita in cui dispende molto i sali. Ognuno c'ha... Uno sportivo, uno che fa un'attività dove suda molto... O io che vivo in un clima molto caldo, quale la maggior parte delle nostre regioni, mi va a prendere un'acqua con un residuo fisso bassissimo, se non ha problemi di salute io lo vedo un po' aberrante. Comunque questa è come funziona. E poi invece no, ci sono gli altri aspetti che lei sottolineava prima, che invece sono aspetti importanti, insomma, perché alcuni sono truffe, altri sono al limite del lecito, no? Sì, le deroghe, sì, così sì. Via una sfumatura di eventi, di cose diverse che si sommano tra di loro e che quando poi dopo noi andiamo a fare la spesa in realtà è necessario, insomma, avere un po' presenti anche per poter fare delle scelte consapevoli come consumatori, indirizzare anche i supermercati, no? Certe cose non si vendono più e quindi magari si cambia anche il modo di produrle. Sicuramente, questo è sicuro. Senta, la ringrazio davvero tanto di questo tempo che mi ha dedicato, e buon lavoro. Mi dica, cosa fa per Expo? Cosa faccio io per l'Expo? Sì. Beh, io sto organizzando tutto l'intervento di quella che è la categoria dei biologi, in quanto ha deciso di entrare in maniera forte, e quindi sto organizzando tutto quelli che sono i contatti con sia le multinazionali, con gli enti governativi. Mm. Molto bene, io la ringrazio per essere stato con noi anche in questa occasione. Grazie a lei e a risentirci. Tutti gli ascoltatori. Da Laura Bettini un buon proseguimento d'ascolto e appuntamento la prossima settimana alla stessa ora per scriverci l'altro pianeta @radio24.it.